Allora, passata da poco le 13, sempre Onda Rossa, al telefono c'è l'avvocato Laura Tartarini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, il 14 giugno si aspetta questa sentenza che dovrebbe essere pronunciata appunto dalla Cassazione. Sono stati anche diramati degli appelli per mantenere una presenza che dia visibilità un po', insomma, così chi è stato anche coinvolto nella vicenda genovese. Insomma, si arriva comunque un po' già con molta delusione, per usare un eufemismo, visto che comunque molti, diciamo, delle parti a processo sono già state, molte posizioni sono già state prescritte. Insomma, la situazione è un po' questa qui, Laura. No, la situazione è peggiore, nel senso che sono tutti prescritti, ecco, non sì. Ci sono reati ancora in piedi come per la Diaz, ma diciamo così, la parte penale è integralmente prescritta, perché mancando un reato in Italia che preveda delle pene più alte, erano tutti reati che si prescrivevano in 7 anni e mezzo, e quindi dal 2001 ormai ampiamente trascorsi, anche con le interruzioni della prescrizione che via via si sono date. Rimangono in piedi invece chiaramente le statuizioni sulle parti civili, sui risarcimenti civili, sì. Per cui, diciamo, la sentenza risponderà sostanzialmente su questo. C'è stata una requisitoria da parte della Procura Generale che in teoria come parte processuale avrebbe dovuto in qualche modo affiancare le istanze delle parti civili, che in realtà ha fatto una sorta di spending review, cioè ha sostanzialmente affermato che i risarcimenti determinati dalla Corte d'Appello erano eccessivi, avrebbero causato un grave danno per l'erario, e quindi, insomma, quello che il nodo che la Corte dovrà prevalentemente sciogliere è quello sulla congruità dei risarcimenti della Corte d'Appello alle parti civili. E certo. Diciamo anche che ad oggi, dopo 11 anni, nessuna delle parti civili di Bolzaneto ha ancora visto un euro di risarcimento, e 11 anni sono tanti, tant'è vero che almeno 3 di loro sono purtroppo deceduti, e quindi abbiamo la costituzione da parte dei parenti, ecco, perché poi 10 sì. anni non passano in vano, ecco. E che dire, questo fa anche il paio con le prescrizioni invece che ci sono state proprio dell'altro giorno, insomma, rispetto anche in questo caso relativi ai risarcimenti per oltre 200 parti offese nel corso proprio delle violenze, insomma, delle cariche, delle violenze subite a Genova in quei giorni. Quindi è un'ulteriore, insomma, pietra che viene così a seppellire quanto è successo, perlomeno da un punto di vista giudiziario. Eh sì, anche perché anche in quel caso le motivazioni non sono state, non ci sono stati reati, ma è stata una sorta di alzabandiera da parte della Procura, almeno di quella parte della Procura di Genova che si è occupata delle parti offese, nel senso che loro nella loro richiesta sostanzialmente sottolineano come il carico di lavoro sia stato talmente enorme e affidato a pochissimi procuratori che non gli ha concesso di fare delle indagini anche per la miriade, sono 220 di fatti di violenza di strada sui quali invece sarebbe stato necessario fare delle indagini e arrivare ai processi. Ricordiamo che rimane invece aperto ancora, purtroppo non prescritto e neanche prescrittibile, il processo a 5 dei 10 manifestanti imputati di devastazione e saccheggio che andranno in corte d'appello non si sa quando, quindi manteniamo l'attenzione alta anche su quello che invece appunto non si prescriverà, purtroppo. Questo è evidente, insomma, e speriamo, insomma, che non anche per loro non ci siano così le implicazioni e la galera che c'è stata invece per, al momento sono 3 praticamente, visto che si è aggiunta anche il compagno latitante. Sì. Va bene, al 14 bene, allora, buon grazie lavoro. Laura, ciao, a presto. Ciao.